La manifestazione, cioè in primis l'abbiamo chiamato come coordinamento migranti, io sono presidente anche di persone senegalese, perché se sentiamo, a parte il fatto che un straniero è stato ammazzato gratuitamente, ci sentiamo molto coinvolti, perché ultimamente abbiamo visto tutto questo attenimento verso i migranti, riguardante il modo in cui reagiscono gli italiani pensando di poter tranquillamente ammazzare con la pistola le persone. A Macerata abbiamo visto uno che è andato in giro a sparare ai neri e l'ultima volta a Firenze, cioè questo qua è stato fatto gratuitamente perché una persona aveva dei problemi, è uscito fuori, ha scelto lui, l'ha mirato e ha ammazzato lui. E nel 2011 questa stessa persona, che è familiare di altre persone che erano state sparate anche a Firenze. Noi pensiamo di scendere in piazza perché Bologna ha sempre reagito in queste cose qua e pensiamo di poterla fare ancora gridando fortissimo il razzismo, la xenofobia, tutte le cose che stanno subendo gli stranieri, perché ultimamente abbiamo visto le campagne elettorali, come sono stati svolti, tutta la campagna che è stata fatta sui migranti, e abbiamo visto i risultati quali sono stati. Questi qua hanno fatto credere agli italiani che i problemi loro sono gli stranieri, e abbiamo visto dove sono andati a versare i voti, dove il comportamento delle persone, non solo ammazzandoli, però anche sull'autobus, offendendo la gente, dicendogli vai a casa tua. La cosa è andata a diventare una cosa adesso molto allarmante. La gente ha paura, si guarda in giro, che cosa può succedere. Tra l'altro anche a Bologna ci sono stati degli episodi davanti al centro di Via Mattei. Sì, in Via Mattei è stato un avvertimento, perché qualcuno è passato, ha sparato a salve, e questo era un segnale, ma molto prima di tutto questo. Forse alcune persone l'hanno preso come una cosa così alla leggera, e dopo si è verificato tutto il resto. Noi abbiamo chiamato questa manifestazione, che sarà anche in regione, perché all'assemblea ultima che abbiamo fatto hanno aderito Modena, Reggio Emilia e Rimini, e pensiamo di coinvolgere anche Firenze, pensiamo di essere in tanti. Come si svolgerà la manifestazione? Abbiamo dato l'appuntamento alle 2 in piazza 20 settembre, partiremo alla Lisa l'autostazione e poi faremo tutto via Indipendenza, faremo un piccolo giro in centro, piazza Maggiore, vicino alla prefettura, e torniamo in piazza dove ci terremo dei comizi. A parte quello, hanno risposto anche tutti i movimenti antirassisti che sono a Bologna, verranno a sostegno di questa manifestazione qua.